La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto! Racconti d'Africa. Fiabe, favole e leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Il matrimonio del magnifico topino. C'era una volta un bellissimo topino, mezzo bianco e mezzo grigio, che diventava sempre più bello ogni giorno che cresceva. I suoi genitori si chiedevano spesso: «Ma dove troveremo mai una moglie degna di lui? Dove la troveremo?» Quando giunse il tempo maturo per cercare una moglie al proprio figliuolo, decisero che solo nella famiglia di Dio avrebbe potuto esserci una fanciulla giusta per lui. Così, come era d'uso, tre topi anziani, componenti della famiglia, andarono da Dio a chiedere una moglie per il bel topino mezzo bianco e mezzo grigio. Giunti alla casa di Dio, i tre chiesero di entrare e una volta dentro dissero: «Caro Dio, noi veniamo per conto della famiglia del bellissimo topino mezzo bianco e mezzo grigio a cercare una moglie bella e degna di lui, e solo tu puoi trovarcela». Dio allora disse: «Vi ringrazio per essere venuti, figliuoli, ma siete nel posto sbagliato. Dovete andare a casa del vento. Il vento è più forte di me, perché mi soffia la polvere negli occhi». A quel punto i tre messaggeri decisero di andare a casa del vento, ma giunti là, dopo aver esposto il motivo della loro visita, il vento disse loro: «Vi ringrazio, amici topi, ma la montagna è più forte di me. Io non riesco a scalfirla, malgrado soffi con tutta la mia forza. Andate da lei. A quel punto i tre topi messaggeri andarono dalla montagna. Giunti che furono, dopo aver esposto il motivo della loro visita, la montagna disse: «Grazie di essere venuti, illustri e rispettabili amici topi, ma c'è una creatura più potente che mi sbriciola proprio, rode dalle fondamenta. Abita laggiù, andate a trovarla». I tre andarono nella casa che gli era stata indicata nelle fondamenta della montagna e videro che era la casa di un topo. Il capofamiglia disse loro: «Avete trovato la moglie per il vostro bellissimo topolino mezzo bianco e mezzo grigio. Che felicità!» E così il bellissimo topolino mezzo bianco e mezzo grigio trovò una moglie degna di lui. Avete ascoltato Racconti d'Africa, fiabe, favole e leggende. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino per paroledistorie.net.